Partire da una nota positiva, forse una delle poche che abbiamo in questo caso, è che intanto finalmente anche nei media mainstream si parla di femminicidio, e questo voglio sottolinearlo perché è un termine che ci è voluto molto tempo perché entrasse nella narrazione pubblica mainstream. Ancora oggi ci sono molti colleghi che ci dicono che è cacofonico, che è meglio non usarlo, che si pronuncia male. In realtà ovviamente sono tutte scuse, tutte giustificazioni. Il termine è esatto, va utilizzato, e va utilizzato soprattutto nei casi come quello di Tramontano, ma anche di altre donne, dove non sono omicidi casuali, uccisioni perché la donna magari per sbaglio attraversa le strisce, fuori dalle strisce pedonali, no? Oppure si ritrova in una rapina. Qui sono uccisioni che avvengono perché le donne vengono uccise in quanto donne, perché sono donne che chiedono altre vite, vogliono essere libere, emancipate, uscire da relazioni tossiche. Quindi questo è un dato importante. Poi per il resto invece purtroppo abbiamo da segnalare ancora una narrazione molto inadeguata dei media italiani, una narrazione che punta al sensazionalismo, a rilanciare l'emergenza solo nei casi più forti, come può essere questo di Tramontano, anche se ricordo che a poche ore da quel femminicidio ne è avvenuto un altro a Roma. Una poliziotta è stata uccisa mentre rientrava a casa, tra l'altro una paziente oncologica, e non è stato dato lo stesso rilievo, per esempio, no? A questo altro caso. Nel caso di Tramontano, il fatto che fosse una donna incinta sicuramente funziona di più, no? Da un punto di vista mediatico. E gli errori maggiori sono questi nella narrazione: da una parte una narrazione estremamente morbosa, sono uscite addirittura le chat, no? Lo scambio tra lei e l'omicida e il suo compagno, e poi c'è tutto un ricamare su una serie di cose che avrebbe dovuto fare o non fare la donna uccisa, che fanno sempre poi creare questa forma di giustificazione in parte sottaciuta e in parte no, che va a parare sul fatto che in fondo lei ha sbagliato qualcosa, mentre su di lui, sull'uomo che uccide, c'è sempre il tentativo di ammorbidire, di giustificare. Quindi in questo caso il troppo stress è uscito fuori. Anche su come viene raccontato l'omicida c'è un continuare a insistere sullo show, per cui diventa il mostro. Non è dipingendolo come un mostro che risolviamo la questione. Il problema che non esce mai fuori bene nella narrazione mainstream è che la violenza è una questione strutturale, non emergenziale, che i femminicidi sono la punta dell'iceberg, ma prima di arrivare a quelle morti ci sono tutta una serie di forme di violenza molto diffusa che riguarda tantissime donne, che a volte si ferma anche solo al piano psicologico, ma non è meno grave, e non c'è mai un ragionamento collettivo, pubblico, che inchiodi la politica alle sue responsabilità, per cui la mancanza di fondi ai centri antiviolenza, la mancanza di fondi alle associazioni che vorrebbero lavorare nelle scuole, perché qui è una questione che va alla radice, no, di come siamo, alla mancata educazione sentimentale emotiva che hanno molti uomini e molte donne, e non è che la risolvi quando sono adulti, devi partire da quando sono ragazze e ragazzi, anche molto prima dell'adolescenza. Adesso con tutti i nuovi media, le tecnologie che esistono, c'è bisogno di partire molto prima. Come tu dicevi, insomma, nella maggior parte degli articoli di giornale, ma anche nelle trasmissioni televisive, non si parla mai, per esempio, del fatto che comunque non sia il raptus di gelosia, il momento di follia a spingere questi uomini a uccidere le proprie compagne spesso, ma una cultura patriarcale su cui si fonda la nostra società. Perché non si parla appunto mai di questa cosa, e perché, come hai appunto precedentemente detto te, si fa sempre riferimento a quello che non fanno le donne, al fatto che non sarebbe dovuta andare all'ultimo appuntamento, dovrebbero imparare a difendersi? Perché non si parla che il problema sono gli uomini, uomini? In parte la risposta ce l'abbiamo già nella domanda, e io penso che non è tanto che il problema sono gli uomini, il problema siamo tutti e tutti, nella misura in cui anche chi non è toccato da queste forme di violenza, che ripeto sono molteplici, non può pensare che il problema non lo riguardi, che sia donna che sia uomo. Sicuramente, come dicevi tu prima, c'è un problema grande relativo anche alla diseducazione anche di molte colleghe e colleghi, per cui si continua a scrivere raptus quando gli stessi psicologi ci dicono che non esiste proprio da un punto di vista patologico il raptus. Quindi le colleghe e colleghi che continuano a utilizzare questo termine hanno anche un problema, diciamo, di formazione professionale, ma al di là di quello c'è una questione che riguarda purtroppo un pensiero dominante culturale che è molto patriarcale, che è molto maschilista. In quest'ultimo periodo sta ripartendo, sta, diciamo, come dire, tornando a essere molto, molto sentito, perché abbiamo anche un governo che non aiuta in questo, e sicuramente la parte politica che in questo momento sta governando il nostro paese ha un'idea della donna di un certo tipo. Di recente un collega di, diciamo, appunto di quest'area ha tirato fuori addirittura un'ipotetica cultura del sud Italia che avrebbe messo, come dire, avrebbe tutelato maggiormente le donne, e molte di noi sono saltate sulla sedia, perché in realtà sappiamo perfettamente che la questione della violenza trasversale non riguarda il nord Italia o il sud Italia, diciamo, in particolare più dell'altro, ma è qualcosa che permea tutta la cultura italiana. Se pensiamo che fino al 1996 lo stupro è stato considerato un reato contro la morale e non contro la persona, si capisce quanto, no, è radicata la concezione patriarcale della donna come proprietà degli uomini di famiglia, perché poi bisogna allargare un po' il cerchio: spesso e volentieri le violenze partono anche da affetti molto vicini, dai fratelli, dai cugini, dai genitori, per poi appunto arrivare ai fidanzati e compagni. E questo voler insistere nel dire la donna ha fatto questo, avrebbe dovuto fare quest'altro, non è che un ulteriore modo per pensare sempre in chiave patriarcale l'eventuale, diciamo, azione da fare in forma di tutela, no? Di uno Stato che possa tutelare le donne, se le donne però rispettano determinati comportamenti e fanno determinate cose. A me ha fatto caso anche la magistrata che sta seguendo il caso specifico di Tramontano, che ha dichiarato, no, in conferenza stampa, che le ragazze non dovrebbero andare all'ultimo appuntamento. Che cosa vuol dire un consiglio del genere? Tutte noi siamo andate anche a quelli che potevano poi diventare ultimi appuntamenti, o comunque agli appuntamenti chiarificatori sono stati chiamati, no? È ovvio che non è quello il consiglio da dare, perché se no significa crescere nuove generazioni nella paura. Sicuramente c'è bisogno di molta prudenza, no? Perché purtroppo in questa società, in questo momento, c'è bisogno di attuare delle forme di autodifesa, ma non è questo che dobbiamo, diciamo, augurarci per il futuro. Per il futuro dobbiamo augurarci un piano antiviolenza nazionale che sia davvero reale, che lavori per dare forza e sostegno ai centri antiviolenza, alla rete dei centri antiviolenza in tutta Italia, che sono pronti per agire sui territori, perché hanno le pratiche, i saperi, che non a caso arrivano dai movimenti femministi e delle donne. C'è bisogno di ascoltare quello che dicono i movimenti femministi come non una di meno, e c'è bisogno di lavorare appunto nei territori, nelle scuole, nei consultori. Bisogna ridare finanziamento e risorse ai consultori, a tutti gli sportelli territoriali che possono intercettare le donne in difficoltà, perché sappiamo perfettamente che non è facile riconoscere a volte le violenze, le pressioni, soprattutto quando c'è una pressione sociale complessiva che fa sì che comunque la donna si senta sempre in difetto, no? Poi, come appunto hai anche tu specificato prima, Tramontano era incinta, e questo, due domande: secondo te è un motivo per cui la gente ne ha parlato così tanto, perché se ne è sentito parlare veramente tanto, a differenza magari dell'altra donna della poliziotta di cui parlavi prima, di cui non si è sentito parlare per niente? E poi molto spesso si è parlato anche di duplice omicidio addirittura, no? Addirittura il Corriere ha pubblicato la lettera scritta dalla zia, diciamo così, di questo bambino mai nato, tra virgolette, e appunto scrivendo questa lettera di un bambino mai nato, dicendo: io non sono una gravidanza ma una persona. Questa cosa non è grave? Non... Sì, sicuramente c'è il tentativo di riportare tutte queste vicende dentro poi un pensiero che non a caso è il pensiero della famiglia, diciamo, di un certo tipo, della maternità vissuta di un certo tipo, di pensare appunto che un feto sia già una persona. Non c'è dubbio che hanno insistito molto su questo, perché in questo momento lì si trova un terreno fertile, c'è un pezzo di paese che rispetto a questa vicenda ovviamente è molto sensibile, così come sono molto sensibili pezzi di paese che chiedono pene più gravi per questi reati, no? Dicono, insomma, bisogna aumentare gli anni di carcere. Sappiamo bene che non è un deterrente, eppure c'è molta gente che invece pensa di risolverla così. Quindi, secondo te, quale sarebbe il modo migliore per parlare, per raccontare un femminicidio? il modo migliore intanto è iniziare a farlo, perché poi io parlo, diciamo, dal punto di vista di una giornalista che ha sempre provato a farlo e che sta in rete con un gruppo di giornaliste come quelle di Giulia, giornaliste, ma anche altre, che sono 20 anni che lavoriamo in questa prospettiva diversa e raccontiamo la violenza in maniera diversa. Quindi da parte nostra continueremo a farlo così, insisteremo perché lo facciano pure le altre colleghe, gli altri colleghi, e quando dico differentemente significa non insistere sui dettagli morbosi o raccapriccianti, non insistere nel cercare giustificazioni che non ci sono nei confronti dell'uomo che uccide, non farne, diciamo, due pesi e due misure a seconda che sia un italiano o uno straniero, perché avviene anche questo, e non continuare a insinuare possibili errori o difetti che ha, diciamo, che possano mettere in ombra la donna che è stata uccisa. Perché questo significa riucciderla due volte, o, come si dice anche in gergo tecnico, rivittimizzarla due volte, no? Perché significa che quella donna viene vista solo in quanto vittima e non capace, appunto, di autodeterminazione e di autodifesa e autoprotezione. Bisogna evitare titoli ad effetto dove, appunto, sì, no? Si insiste nel particolare gli accenti. Un titolo ad effetto che è rimasto, diciamo, nella storia dei nostri corsi, quando diciamo come non si dovrebbe raccontare un femminicidio, è quando per esempio ci fu il caso di quella donna uccisa dal suo amico. Appena successo il fatto, venne soprannominato il gigante buono. Ma qui non c'è né mostro né gigante buono, ci sono uomini che uccidono e che uccidono perché non accettano che quelle donne dicano di no. In quel caso era una donna, tra l'altro, lesbica, abbiamo saputo tanti giorni dopo. Tanti giorni invece si è insistito sul fatto che lui era stato rifiutato da lei. Peccato che se avessimo saputo da subito che lei era una donna che amava altre donne, probabilmente lui non sarebbe passato come gigante buono.